24 mattino. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli e sono ancora tanti i messaggi che arrivano che chiedono di Alessandro Milan torna lunedì e quindi ancora oggi e domani ci sarò io in degna sostituzione e poi lunedì torna Alessandro. Guardiamo le prime pagine dei giornali e anche se tra poco poi avremo anche Mauro Meazzi in collegamento, comunque diamo un'occhiata alla pagina del Sole 24 Ore che è uno è uno dei pochi giornali a non dare il titolo principale alla vicenda di Roma, che peraltro è riportata sulla prima pagina ma non è il titolo principale, e anzi c'è anche un commento di Lina Palmerini, la nostra notista politica, intitolato "Lo scudo di Grillo, l'errore di Di Maio", oltre alla cronaca, e il titolo principale però è dedicato a quello che probabilmente farà la BCE, la Banca Centrale Europea guidata dal governatore Mario Draghi, in tema di politiche monetarie, che è una delle poche cose che può fare, perché sappiamo che la Banca Centrale Europea poi ha dei poteri tutto sommato limitati. Questo ce l'ha, quello di fare una politica monetaria del cosiddetto QE, quantitative easing. Borse e bond in rialzo ieri, solo sulla voce che ci sarà questa nuova mossa di Draghi. In prima pagina, anche lo avete sentito nel GR, questo grande cambiamento dell'abolizione degli studi di settore, e in prima pagina anche Sara Monaci ci racconta che c'è un piano per Milano, un patto per Milano, un piano da 1,5 miliardi per ridare slancio a quella che viene comunque considerato il motore economico, almeno per quanto riguarda le città, dell'Italia. Corriere della Sera, Raggi sacrifica un fedelissimo, Grillo, due punti, vigileremo. Quindi, come vi dicevo, titolo principale sulla questione della giunta di Roma. La fotonotizia però è dedicata al muro che verrà, se non ci saranno delle marce indietro, che verrà costruito, pare entro i primi mesi del 2017 dovrebbe essere finito, a Calais, in Francia, che però è proprio un territorio di confine, perché è da lì che partono molti immigrati clandestini con i metodi più pericolosi, per esempio aggrappandosi sotto i camion che fanno la spola tra la Francia e il Regno Unito, usando o il trasporto marino o il tunnel sotto la Manica. La Repubblica, Grillo salva Raggi e torna al Vaffa, perché alla fine vi ricorderete sicuramente tutti i Vaffa Day, alla fine del comizio di cui abbiamo parlato anche dalle sei e mezza alle sette con Carla Rocchi e Carlo Rienzi dell'ENPA e del Codacons, questi Vaffa Day il Movimento 5 Stelle li aveva organizzati in passato. Alla fine di questo comizio che si è tenuto ieri di Beppe Grillo e degli altri esponenti di spicco del Movimento 5 Stelle a Nettuno, vicino a Roma, un comune che tra l'altro ha un sindaco del Movimento 5 Stelle, alla fine appunto del suo intervento Grillo è tornato a questo Vaffa. Resa dei conti al vertice dei 5 Stelle, ci sono anche in questo caso tantissimi commenti, uno del direttore della Repubblica Mario Calabresi, se il Grillo si chiude a riccio, un'analisi di Tommaso Ciriaco, bugie SMS, cade il candidato leader, e poi un'altra di Francesco Merlo, la comodità del garantismo. Vi segnalo anche, poi se ci sarà tempo ne leggeremo una parte, un'intervista al cosiddetto ministro degli esteri europeo Federica Mogherini, che viene intitolata da Andrea Bonanni, che è il corrispondente di Repubblica da Bruxelles, difesa europea, ecco come realizzarla subito, perché appunto ho appena finito di dire che la BCE, che è un'altra importantissima istituzione europea, non ha i poteri che molti auspicano dovrebbe avere per essere una vera banca centrale, e lo stesso vale per altri settori, per esempio appunto non c'è un esercito europeo, non c'è di fatto una politica di difesa europea, e di questo tema si discute molto e ne hanno parlato in questa intervista anche Federica Mogherini con Andrea Bonanni di Repubblica. Dalla prima pagina un articolo di Roberto Saviano che parla del documentario presentato a Venezia da Michele Santoro, che si chiama Robin Hood, ed è girato, riprende le vite dei ragazzi spesso minorenni di Napoli che vivono nelle zone più disagiate della città. Sicuramente questo è un tema che Roberto Saviano conosce benissimo, è un bel pezzo, sicuramente lo fa il documentario, ma lo ribadisce giustamente Saviano, che su Napoli, su quello che succede lontano dalle telecamere, lontano dai media, dall'attenzione generale, c'è un mondo di disperazione, e soprattutto quando sono i ragazzi molto giovani a vivere in queste condizioni, è chiaro che ipotecano automaticamente il loro futuro. La fotonotizia è dedicata anche a un altro film presentato a Venezia. Abbiamo visto appunto il documentario di Michele Santoro ieri al Festival del Cinema di Venezia, che si concluderà sabato con l'assegnazione dei premi. Il film di cui avete sentito parlare anche nel GR è il film su Jackie Kennedy, interpretato da Natalie Portman. Il messaggero, Grillo, controlleremo la Raggi. Sceglie quindi il messaggero, estrapola per queste quattro parole per il titolo, perché in realtà Grillo non ha esattamente detto questo, quindi è un po' un titolo forte, forse addirittura un po' forzato, perché forse è il retroscena che molti hanno letto in quello che è successo ieri, cioè che comunque alcune cose che riguardano l'autonomia del sindaco Raggi, ma forse anche di altri sindaci, vanno riviste, e ci deve essere una catena, diciamo una catena di comando un po' più chiara e un po' più efficiente. L'editoriale in questo caso è del direttore del Messaggero Virman Cusenza, l'anno orribile di Roma senza governo, perché se ci pensate, dalle dimissioni forzate, potremmo dire così, di Ignazio Marino, poi l'interregno del commissario straordinario Tronca, e adesso questo stallo della giunta Raggi, sembra appunto che siano troppi mesi, come anche diceva Carlo Rienzi del Codacons, troppi mesi che la città è in stallo. La fotonotizia anche sul Messaggero è dedicata a questo muro che verrà eretto a Calais, pagato dal Regno Unito, anche se è, come dicevamo, su suolo francese. Visto che il Messaggero è per definizione il quotidiano di Roma, vi segnalo subito dalle pagine interne a pagina 3 c'è un fotogramma del video che Virginia Raggi ha messo ieri nel tardo pomeriggio sul blog di Beppe Grillo, e dove dice sostanzialmente: noi non ci facciamo intimidire, io ho le spalle larghe e andremo avanti e manterremo le promesse fatte agli elettori. Ci sono dei retroscena anche su questo, e pare, ci raccontano Simone Canettieri e Stefania Piras sul Messaggero, che la sindaca si sia già informata sulla famosa penale che il Movimento 5 Stelle impone quando c'è uno strappo con i vertici, e sarebbe di 150.000 euro, e lei vorrebbe sapere se, continuando magari in una strada di forte autonomia, potrebbe incorrere in questa multa. La Stampa, Grillo assolve Raggi. Vedete come anche nel titolo appunto si può già quasi esprimere un'opinione, perché ripeto, il Messaggero titola Grillo due punti, controlleremo la Raggi, e la Stampa, Grillo assolve Raggi, Di Maio si scusa. Anche qui tantissimi, tantissimi commenti. Vi segnalo però dalla prima pagina della Stampa anche due belle inchieste, una sui bimbi soldato in Colombia. Ricorderete che circa 10 giorni fa è stato sancito finalmente un accordo tra il governo e le FARC, i guerriglieri colombiani, deve essere ancora ratificato entro quest'anno, però potrebbe essere veramente la fine di una guerra civile, anche questa dimenticata in Occidente sicuramente, che durava da 52 anni, e tra chi ha combattuto e subito questa guerra ci sono anche i bambini soldato. E invece, sempre a proposito di perdite di vite umane, ma Paolo Mastrolilli da New York ci dà conto di una recente statistica uscita negli Stati Uniti, dalla quale emerge che Chicago viene definita la metropoli dei delitti. Pensate che solo durante l'ultimo fine settimana sono state colpite da armi da fuoco 65 persone a Chicago, la capitale dell'Illinois. Non stiamo parlando di Aleppo o Sirte, ma di Chicago. Sempre dalla Stampa vi segnalo la Iena, il brevissimo corsivo che appare tutti i giorni a pagina 3 della Stampa, e questa volta è sempre, insomma, è un po' come raccontare una barzelletta, è difficile magari, però ve lo leggo, sono solo 3 righe. Si intitola Meglio. per essere un buon premier, Di Maio deve imparare a dire meglio le bugie. Questa era la Iena. Il Fatto Quotidiano, un titolo anche qui molto a effetto, con due foto di Virginia Raggi e Beppe Grillo, in realtà sono fotomontaggi perché appaiono in costumi d'epoca. Il titolo è La Marchesa del Grillo. Pax Grillina, il fondatore, scende a Roma e dà pieni poteri a Virginia Raggi. L'editoriale consueto di Marco Travaglio è una sorta di lettera immaginaria che Virginia Raggi, secondo Travaglio, dovrebbe scrivere ai militanti del Movimento 5 Stelle, ai simpatizzanti e a chi l'ha votata a Roma. Dovrebbe iniziare così: cari amici dei 5 Stelle, cari elettori che mi avete votata anche senza appartenere al movimento, vi chiedo scusa per questa falsa partenza, frutto di errori commessi da tanti ma anche da me. E continua, e sicuramente ci sono degli spunti, ma come abbiamo detto, Di Maio in effetti che era considerato addirittura il candidato premier in caso di elezioni anticipate o no, candidato premier del Movimento 5 Stelle, ha chiesto scusa e l'ha fatto in questo comizio di ieri di Nettuno, che è stato ripreso da tutti. Il titolo dell'Unità: dalle stelle alle stalle, e naturalmente c'è tutta la cronaca di quello che è successo. Un po' infelice la scelta di mettere subito sopra una foto di bambini dietro a una rete, perché la notizia è, lo vedremo anche su altri giornali, che l'ultimo dato sui profughi, appunto bambini, è di 50 milioni in un anno. E vi segnalo anche, prima di una breve pausa, che esattamente come ha fatto ieri l'Unità dà spazio e richiama entrambi gli articoli in prima pagina a due posizioni che sono per il sì al referendum. E come abbiamo detto ieri, forse sarebbe più equilibrato almeno metterne due di opinioni, uno di qualcuno che sostiene il sì alla riforma costituzionale e qualcun altro che sostiene il no. Ma questa era l'ultima pagina che ho tempo di segnalarvi, ci fermiamo un attimo per la pausa. Mattino. Buongiorno, ancora buon giovedì da Giulia Crivelli. E sono sempre molto stupita, divertita, super interessata a leggere i vostri messaggi, perché c'è chi mi dice che è palese che io sono per il sì al referendum, e poi ci sono ascoltatori che invece mi dicono che è palese che io sono per il no. E va bene, cioè adesso non faccio una statistica, però se fossero divisi a metà queste due impressioni sarebbe, dal mio punto di vista, perfetto. E preciso a invece chi mi chiede, dice 50 milioni di bambini, punto interrogativo, sì, il numero dei bimbi profughi nel mondo, questa è la stima, è di 50 milioni. E poi al signore che mi chiama sempre Gattare, che mi suggerisce di leggere la copertina di Il Cavallo, prometto che oggi vado a cercarlo in edicola e domani vediamo se può essere interessante la copertina di Il Cavallo. Ma torniamo alle prime pagine dei giornali. Il Giorno, abbiamo visto come altri giornali sottolineino questo mea culpa di Di Maio ieri dal comizio, dal palco di Nettuno vicino a Roma. Di Maio, due punti, sì, ho sbagliato. Ma la fotonotizia è dedicata alla scuola. In realtà le uniche scuole che sono già aperte sono quelle del Trentino Alto Adige, credo, e in Lombardia e in tutte le altre regioni apriranno nei prossimi giorni. Ci sono parecchi problemi, soprattutto il fatto che, nonostante il concorsone, è una questione di cui si è occupata anche Radio 24 e naturalmente anche i giornali, quindi ne abbiamo dato conto nelle rassegne stampe, nonostante il concorsone in realtà il problema delle supplenze non è risolto. Libero ha un titolo diverso, è una vera e propria lettera, quindi non un editoriale del direttore Vittorio Feltri, ma, e questo è anche il titolo della prima pagina, lettera di Feltri a Renzi. Il tema principale sono le pensioni. Due giorni fa Renzi è andato a Porta a Porta, ha raccontato molte cose, però anche qual è il suo piano per le pensioni, con questa idea di dare una quattordicesima a milioni di persone che in questo momento non ce l'hanno. E Feltri dice, riassume: il premier vuole aumentare l'assegno a chi non ha mai pagato i contributi e non è tassato, mentre per chi versa regolarmente i tempi del ritiro si allungano sempre di più e il riconoscimento economico viene tagliato drasticamente. Il giornale a sua volta ha un titolo diverso, questa volta sul muro che verrà costruito, la cui costruzione è stata annunciata ieri a Calais. Il muro di Londra sfida inglese all'immigrazione. La Gran Bretagna farà costruire una barriera al porto di Calais per difendersi dai migranti. La fotonotizia però è stata scattata ieri a Nettuno. Grillo grida al complotto e Di Maio dà la colpa al PD. Per chi è appassionato o vuole, magari la maggior parte di voi comunque sanno già, comunque questo riferimento è perché prima di chiedere ufficialmente scusa per aver sottovalutato la segnalazione che gli era arrivata da Paola Taverna sul fatto che l'assessore Muraro era indagato, prima di chiedere scusa Di Maio ha detto che in realtà lui pensava che quelle accuse fossero per una questione legata al PD e che quindi fossero stati esponenti dal PD a segnalare un eventuale reato, e quindi l'aveva sottovalutata per questo. Avvenire, sempre più Brexit, perché questa è la sintesi che fa l'Avvenire di quello che dicevamo del muro di Calais. Londra alza un muro anti-migranti e qui c'è ancora il riferimento a quella cifra impressionante che abbiamo fatto prima. Il dato viene dall'UNICEF, i bambini profughi salgono a 50 milioni. La fotonotizia però diversa, ma secondo me un'ottima notizia, è una foto un po' sfocata di quei lettini che abbiamo visto spesso nei film americani, dove negli stati in cui la pena di morte viene comminata con le iniezioni letali vengono appunto sdraiati i condannati, e tra l'altro quasi sempre c'è un vetro, e dietro al vetro ci sono le autorità dello stato e a volte, se desiderano essere presenti, i parenti delle vittime. Perché quasi la totalità dei condannati a morte sono condannati a morte per omicidi di vario tipo. Il titolo è: il boia ora si ferma, negli Stati Uniti esecuzioni solo in 3 stati, in 25 anni non c'erano mai state così poche uccisioni. E un altro vertice, abbiamo seguito tanto il G20 di Guangzhou in Cina, ma c'è stato anche un altro vertice, dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'ASEAN, si conclude oggi nella capitale del Laos, Vientiane. Ce lo racconta Stefano Vecchia aprendo una finestra, accendendo una luce su questo paese, di cui tra l'altro ieri non ho fatto in tempo a segnalarlo, ma aveva parlato anche Barack Obama, che era ospite di questo vertice. Il titolo è: democrazia, libertà, diritti. Il Laos resta impermeabile. Autoritarismo e sottosviluppo, il regime non cambia. La Gazzetta dello Sport ha una copertina dedicata alla lotta per lo scudetto e come sapete ieri c'è stata la cerimonia di inaugurazione delle Paralimpiadi, che iniziano poi ufficialmente oggi a Rio. Per trovare un brevissimo accenno a questa seconda parte delle Olimpiadi di Rio bisogna arrivare alla pagina 27 della Gazzetta, e anche in questo caso lo faccio spesso via SMS o WhatsApp. Mi becco anche della catto comunista o altre cose simili, inteso naturalmente come insulto, anche se poi analizzando bene la parola perché deve essere un insulto catto comunista, ma in ogni caso appunto correndo questo rischio vi segnalo che l'Avvenire è l'unico giornale che dedica 2 pagine alle Paralimpiadi, spiegando quali sono le gare di oggi, quali saranno gli eventi più importanti dei prossimi giorni. Prima di sentire Mauro Meazza, che tra poco si collegherà con noi e ci spiegherà meglio cosa c'è oggi sul Sole, ci incuriosirà, perché poi mi dimentico da un po' di giorni di dirlo, però il mio sogno, il mio auspicio sarebbe che dopo questa rassegna stampa, dopo qualsiasi rassegna stampa, si fosse veramente invogliati, se non lo sia già tra le mani, andare in edicola e comprare quel magnifico oggetto che è il giornale di carta. Ma detto questo, torniamo anche a un argomento che abbiamo toccato ieri, vi ricorderete il titolo del Fatto: Raggi è bugiarda ma resta, Sala è bugiardo ma resta. Sala è il sindaco di Milano che era indagato per false dichiarazioni nella dichiarazione dei redditi. Il Corriere della Sera è l'unico giornale che con un certo spazio spiega che la procura milanese ha archiviato l'inchiesta su Sala per la dichiarazione sulle case. Non erano falsità, ma omissioni da sanzione amministrativa. e dico così en passant, che questa notizia dal Fatto, che su questo ieri ha titolato, non viene neanche riportata. E però se c'è Mauro, lo vorrei sentire subito, anche perché ieri la copertina della Gazzetta era dedicata ai calciatori super pagati e oggi la Gazzetta pagina 17 dà conto delle reazioni che ci sono state online, e sono, insomma, per il web questi tipo di stipendi sono immorali, e tu ieri, proprio ieri, ci dicevi ma forse, insomma, dovrebbero corrispondere a quello che un giocatore fa a guadagnare alla squadra, ma non sempre è così. Quindi se vuoi un primo commento, Mauro, lo puoi fare su questa cosa degli stipendi dei calciatori. Buongiorno Giulia, quasi quasi preferisco Alessandro che mi fa precedere da indagati e arrestati rispetto a questo tipo di domande. Ma ti ringrazio della domanda. Che dire, ma guarda, anche io sognerei di essere pagato come un calciatore, ecco. Però è un dato di fatto che, pur essendo io molto abile, che so, a scrivere i titoli del Sole 24 Ore, nessuno è in fila dai bagarini per comprare un biglietto e vedere me che scrivo i titoli sul Sole 24 Ore, quindi per me. Purtroppo neanche per vedere te che conduci la rassegna stampa Radio 24. Quindi che dobbiamo fare? Evidentemente c'è più curiosità per i calciatori e alla fine i loro stipendi e i nostri riflettono questa curiosità. Non so se me la sono cavata o verrò asfaltato dalla rete, ma in ogni caso... Parlaci del Sole. Oggi c'è una notizia molto importante, l'addio, programmato l'addio agli studi di settore, si va alla compliance. Mm-hmm. Tu sai cos'è la compliance? Ti darei una traduzione tecnica, ma sicuramente non è quello che intendi tu. Guarda, sostanzialmente vuol dire che ti adegui, che so, a una terapia, ti adegui, fai il bravo. Allora, ci sono questi meccanismi di studi di settore che i nostri amici professionisti conoscono bene, ma anche i lavoratori autonomi conoscono bene, saranno superati, saranno migliorati, diciamo così, da una serie di indicatori di compliance, appunto, che dovrebbero essere molto molto più raffinati e, diciamo, cogliere meglio la situazione economica del soggetto che vanno ad indicare. Criticatissimi, giusto, in passato da molte associazioni questi studi di settore. Diciamo che non sono mai stati completamente digeriti, ecco, quindi sempre stati sopportati, però mai completamente digeriti. Adesso si volta pagina, raccontiamo tutti, i dettagli sono sul Sole 24 Ore di oggi, in edicola, ma anche su tablet, come sai, anche su computer. Hai già detto del presidente Draghi, del governatore Draghi, c'è questa attesa per le comunicazioni che potranno esserci oggi, con nuove misure di quantitative easing, insomma nuovi stimoli per l'economia, per far ripartire la crescita. Vorrei tornare su Roma, ieri ti segnalavo, avevamo questo lavoro di Giliberto su il problema dei rifiuti a Roma, il deficit dei rifiuti. Oggi sempre di deficit parliamo, ma è quello dell'ATAC, ne parla Gianni Trovati. Ahimè c'è un confronto un po' impietoso tra la municipalizzata dei trasporti di Milano e la municipalizzata dei trasporti di Roma. I dati, insomma, sono un po' preoccupanti, trovate tutta la tabella, non voglio anticipare nulla, nelle pagine del Sole 24 Ore. Posso girarti una richiesta del nostro ascoltatore, quello che mi chiama Gattara? Dice che dovresti cercare di trovare un articolo sui gatti sul Sole 24 Ore, perché così mi faresti contenta. Non credo che ci sia. Ho visto settimana scorsa un articolo sulle regole di condominio per gli animali domestici, ma oggi niente sui gatti, vero? Tra l'altro un articolo che diceva, appunto, riferendo di una sentenza del Tribunale di Genova, se ricordo bene, perché norme e tributi, come sai, va sempre letta religiosamente, certo. Stava proprio in norme e tributi, ebbene riferiva che non ci possono essere limitazioni da regolamento condominiale rispetto agli animali domestici, ma tutto è a disposizione anche nell'archivio del Sole 24, i nostri abbonati ben lo sanno. Volevo segnalarti che non abbiamo, in questo momento non mi sovviene nulla sui gatti nell'edizione odierna, né sugli animali di sorta, però sicuramente, essendo giovedì, torna Casa 24, tornano le pagine di Casa 24. Allora, senza voler fare un paragone, parliamo ad esempio delle camere affittate agli studenti universitari, non sono animali domestici, vorrei chiarire, però diciamo, se proprio uno vuole un ospite, allora lì c'è la possibilità, la cosa è molto seria. In realtà siamo andati a vedere anche se questo può essere una possibilità anche di incremento di entrata per la famiglia, e c'è in effetti un forte aumento di richieste e di conseguenza anche qualche ritocco all'insù degli affitti, specialmente nelle città universitarie più importanti. Poi una cosa, vorrei concludere. Sì, beh, guarda, qui ti ho fatto radio, perdere tempo. E mi distrai con i gatti. No, serissimi ora, perché qui Radio Fisco. Per l'assegnazione dei beni ai soci si prepara una proroga, ma non c'è ancora. Tutti i particolari su norme e tributi. Bene. Altro non ti posso dire, non posso svelare nulla, chi doveva capire ha capito. A questo punto, Giulia, traffico! Mattino. Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli. E ha ragione l'ascoltatore che dice che ci sono tanti messaggi, quelli sui gatti sono una minoranza, quando posso li leggo e li segnalo. E torniamo però sulle pagine interne dei giornali, sia il Corriere, Repubblica, ma anche altri tornano sul caso Regeni, Giulio Regeni, che aveva 28 anni, era un dottorando dell'Università di Cambridge nel Regno Unito, fu rapito e si trovava al Cairo per studiare, fu rapito il 25 gennaio che era la sera del quinto anniversario delle proteste di Piazza Tahrir, quella che allora chiamammo la primavera araba. Il corpo senza vita fu poi ritrovato il 3 febbraio e già dalla prima autopsia si capì che era stato torturato. E oggi ci sono nuove rivelazioni sull'autopsia, se ne parla anche perché oggi saranno a Roma i magistrati egiziani, perché a distanza di, siamo in settembre, come dicevo, il corpo è stato ritrovato in febbraio, sono passati 7 mesi e la verità appare lontanissima sul sequestro, sulle torture, sulle ragioni, perché ci sono dei silenzi colpevolissimi sia da parte delle autorità egiziane che anche da parte dell'Università di Cambridge, che non ha ancora rivelato esattamente su cosa stesse lavorando Giulio Regeni. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo anche qui, come ha giustamente detto Vincino, martedì non si può leggere una vignetta in radio, ci provo lo stesso perché è molto semplice, è la vignetta di LK. Uno dei due personaggi dice: Di Maio ammette di aver letto la mail sulla Muraro, e l'altro personaggio dice: purtroppo i poteri forti gli hanno impedito di capirla. Come abbiamo detto prima guardando i titoli richiamati in prima pagina, l'intervista a Federica Mogherini, che tecnicamente è l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, cioè sarebbe, semplificando, il ministro degli esteri europeo, anche se poi è una sorta di, qui in Italia una volta si diceva, ministro senza portafoglio, perché poi la sua è soprattutto un'opera diplomatica, di moral suasion, non ha dei veri poteri da ministro degli esteri nazionale. In ogni caso il titolo scelto è: dopo Brexit niente più scuse, ora può nascere la difesa europea, come dicevamo prima. Accennavamo parlando del sindaco del Movimento 5 Stelle Appendino a Torino, che dando conto di quello che sta facendo a Torino, e mi lego a questo per una questione che Repubblica ci racconta a pagina 20 con Cristina Nadotti. Panino a scuola, effetto domino, sfida la mensa da Genova a Milano. Cosa significa questo titolo? Che sempre più genitori chiedono di poter dare ai figli cibo cucinato a casa, di non essere obbligati appunto a mandare i figli alla mensa quando si tratta di scuole a tempo pieno. Vi dicevo del caso di Torino perché la partenza sarebbe stata il 3 di ottobre per una riforma delle mense e dei refettori, e i presidi però non sono d'accordo e quindi ci sarà il caos. Perciò anche questo sarà un banco di prova per il nuovo sindaco di Torino. Dal Messaggero vi segnalo questa classifica che è uscita ieri, la fonte è l'Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo, dal quale viene fuori che i romani sono veramente insoddisfatti. Roma è la capitale, è penultima nell'Unione Europea, ancora più insoddisfatti sono gli ateniesi, ma l'Eurostat appunto rileva questa insoddisfazione profondissima, soltanto solo Atene fa peggio. Però ci sono anche altre città messe male, altre città italiane in questa classifica, ad esempio Palermo. Avete sentito Enrico Pagliarini raccontarci del nuovo iPhone, ce l'hanno tutti i giornali, ma ve lo segnalo dal Messaggero, perché purtroppo in radio non riusciamo a far vedere subito le foto, poi naturalmente sono sul sito, però mentre parliamo no, e quindi sul Messaggero ce ne sono già parecchie, naturalmente tratte dalla presentazione che il CEO di Apple ha fatto ieri di questo iPhone 7. Dalla stampa vi segnalo il reportage di Nicolò Zancan, che è andato a Sandefjord in Norvegia, che è dove abita Hammer, il medico che sostiene, è stato anche bandito dall'ordine dei medici, ma comunque radiato dall'ordine dei medici, ma sostiene, un medico tedesco che sostiene, che il cancro non si cura con la medicina tradizionale ma con cure alternative, tra cui le medicine, le vitamine. Perché Nicolò Zancan ha deciso di fare questo viaggio? Ricorderete senz'altro i due più recenti casi di cronaca, quello di Eleonora Bottaro, una ragazza di 18 anni di Padova, che aveva una forma di leucemia, secondo molti oncologi, curabile, ma che non è stata curata con, appunto, la medicina tradizionale, perché i genitori si sono opposti alle cure essendo seguaci del metodo Hammer. Stessa sorte per una donna di Rimini di 34 anni che è morta la scorsa settimana, anche lei per un tumore che si considerava curabile con altre cure che non fossero chemioterapia, chirurgia, radioterapia, cioè appunto la medicina tradizionale. A proposito di sanità, il Messaggero dà una notizia che non ho trovato altrove, cioè che dopo 15 anni sono arrivati i nuovi LEA. Che cosa sono i LEA? I livelli essenziali di assistenza, quindi quelli che danno le linee guida per quello che la società, la sanità nazionale può erogare o no. Sì, unanime delle regioni, e il ministro per la salute Lorenzin ha dichiarato nuove prestazioni in tutta Italia entro l'anno, difenderò i 2 miliardi in più per la sanità. Ora mi viene il dubbio che in realtà sul Sole 24 Ore questa notizia ci sia, dopo controllo, perché sennò Mauro come minimo mi picchia. E vi dicevo, l'Avvenire è l'unico giornale che dedica ben 2 pagine a Rio 2016, ai giochi paralimpici che iniziano ufficialmente oggi, mentre sull'Unità si dà conto delle dichiarazioni di Vasco Errani, da poco nominato commissario straordinario per l'emergenza terremoto, che ieri ha detto, anche alla luce del maltempo che sta colpendo il centro-sud e comunque dell'abbassamento delle temperature man mano che ci avviciniamo all'autunno, ha detto: acceleriamo, prometto, le tende e le tendopoli vanno lasciate al più presto, quindi bisogna accelerare sull'arrivo delle prime case prefabbricate che dovrebbero essere in legno. Altre segnalazioni su argomenti un po' così da pensiero laterale, non proprio di cronaca stretta. Il Corriere della Sera ha un'anticipazione del libro che uscirà domani in tutto il mondo, una conversazione tra Peter Sewald e Benedetto XVI. Benedetto si racconta: decidere non è il mio forte, ma non mi sento un fallito. Questo è il virgolettato scelto per titolare l'intervista. Purtroppo non ho altro tempo per farvi altre segnalazioni, ma davvero i giornali come oggi sono ricchissimi e per, secondo me, è sempre un piacere sfogliarli, oltre che da tablet come oggetto fisico, una vecchia tecnologia che non invecchia, potremmo dire così, quella della stampa, ma sono di parte ovviamente. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, a Lorenzo Nespoli in redazione, che ieri ho chiamato Cremonesi e me ne scuso. Un grazie a tutti voi per averci seguito, vi ricordo che Alessandro, chi appunto lo chiede, tornerà lunedì, Alessandro Milan. Un buon giovedì a tutti da Giulia Crivelli.